Palla spicchi con Carlo Genta. At 4-6-8 from St. Vincent St. Mary High School, number 6, LeBron James. Avete capito tutti, no? Anche il presidente Obama aspettava questa partita che aveva definito bestiale. Di bestiale in realtà c'è stato pochino. I Bu sacrosanti, secondo me, non so secondo voi, a Sua Maestà LeBron, composta contestazione comunque all'americana. Nessuna partita in realtà, 118-90. 38 punti del prescelto, e così si è chiusa la partita dell'anno, come era stata battezzata prima. Troppo debole Cleveland, e in fondo quei Bu non hanno fatto male più di tanto a LeBron James. Da qui partiremo. Franco Piantanini, redazione, autore tra l'altro e regista e arbitro dell'uno contro uno, che poi sentiremo e che giocheremo in anteprima della partitissima invece di domenica. Si gioca all'ora di pranzo la partitissima del momento, almeno in Italia. Nei nostri confini non ci sarà LeBron James, non ci saranno superstar americane, però c'è Siena-Milano, che in questo momento è una partita da vedere. Ne parleremo naturalmente, così come parleremo dei riflessi da Europa, dei riflessi da Eurolega, con Milano che non è riuscita ad andare oltre i suoi acciacchi a Lubiana, sconfitto 82-75, una partita di grande cuore di Milano che però non so per quanto tempo potrà andare avanti con tutti questi infortunati. Come sapete, Milano alla ricerca di un lungo, perché Petravičius è ormai un lungo degente. Roma invece alla ricerca di un playmaker, però ieri ha giocato secondo me la miglior frazione stagionale, il secondo tempo di Roma ieri contro lo Charleroi è stato qualcosa di serio. Primo tempo un po' da buttare secondo me per Roma, ma ripresa senz'altro di livello, con un Darius Washington che così non si era mai visto. Io direi che, in attesa di collegarci con Coach Peterson, con le linee che vanno e vengono, io vi do i nostri contatti: 800 24 00 24, numero verde, messaggio SMS 349 238 6666. Ne ho già uno di Alex Dassaronno che propone un po' di temi: la strapotenza e strafottenza di LeBron James di ritorno a Cleveland, Cantù, il miracolo che ogni anno si ripete, e Jerry meglio di Mike Green, sono domande. Strapotenza e strafottenza di LeBron James, insomma, si è vista ieri sera. Tra l'altro, dichiarazione interessante quella del suo ex amico e compagno di squadra Mo Williams, che ha rifiutato la mano a LeBron James, non l'ha neanche guardato negli occhi, e poi ha dichiarato: è come se la tua ex fidanzata venisse al tuo matrimonio. Ecco che è arrivato il coach. Ciao coach! Ciao ragazzi, scusatemi, ma ero nel labirinto della stazione, dimmi tutto. Nel labirinto della stazione, mentre noi parlavamo di LeBron James, il presidente Obama aveva detto partita bestiale. Di bestiale c'è stato pochino in realtà. Yeah. 118-90, contestazione all'americana, non particolarmente pesante per LeBron James, lui che ne ha segnati 38, ed è finita così, insomma. Sì, infatti la società di Cleveland ha fatto un buon lavoro chiedendo di non avere intemperanze o le cose provocatorie, eccetera, quindi è abbastanza rispettato, diciamo, che ovviamente qualcuno ha fatto bu come fanno gli Stati Uniti, ma globalmente bisogna dire che la cosa proceduto come Dio comandava. Sì. Coach, invece in Eurolega hai commentato Siena l'altro ieri e Roma ieri. Dicevo, grande secondo tempo, la miglior frazione stagionale per Roma, il miglior momento stagionale quel secondo tempo. Ha fatto un quarto partita sofferto, ok, perché è facile dimenticare che era 66 pari dopo tre quarti. E ieri Roma per la prima volta tutti hanno fatto un contributo. Charles Smith che ha fatto 7 punti, non niente, Dastis non ha giocato bene, ha fatto un canestro a 3 del più 8, tutti hanno fatto qualcosa per far vincere la squadra, ovviamente sugli scudi, Jadovic e Washington che ha fatto veramente tutto per tenere la squadra in partita e poi alla fine hanno assolutamente ucciso la partita. Però Charleroi è una buona squadra, era allenato molto bene da Giovanni Bozzi, ha tenuto banco per 30 minuti. Sì. Avevano anche la possibilità di vincere, quindi Roma ha dovuto tirare fuori il meglio di sé e l'ha fatto. Coach, un peccato che Milano, secondo me che Milano arrivi a questo momento abbastanza importante della stagione, al primo momento davvero importante della stagione con i giochi di Eurolega che si stanno compiendo, con la partita con Siena che si gioca domenica. Un peccato che ci arrivi senza tutti questi giocatori. Da un anno e mezzo Petravicius non c'è mai stato, adesso cercheranno un lungo. Pečarov l'abbiamo visto solo all'inizio, le primissime partite della stagione, fuori anche Maciulis. Un peccato per Milano. I tre lunghi, diciamo, del quintetto base sono KO e quindi impossibile giudicare Milano. Io mi devo basare su quello che ha scritto Massimo Oriani oggi sulla Gazzetta dello Sport, che la squadra ha dimostrato carattere e dice proprio grande passione per la questione. Quindi è un grande peccato per loro, perché ovviamente noi Sport Italia tifiamo per tutte le tre squadre italiane andare più avanti possibile, perché per i nostri telespettatori è il massimo. Però Milano ha sempre la possibilità. Io penso che Siena ovviamente è già qualificato, Roma con questa vittoria è dentro. Milano ovviamente deve fare qualcosa in casa, hanno due opportunità in casa per far colpo, Valencia e compagnia. E devono proprio farla, e se riescono a trovare qualcuno bravo in breve tempo c'è la possibilità, se no non so, devono far veramente un miracolo. Cos per Siena invece, io ho l'impressione che già da un mesetto Siena stia cominciando a viaggiare con il pilota automatico, anche nella partita dell'altra sera l'impressione è stata questa. Come l'anno scorso più o meno, leggermente diverso come squadra, McCaleb è più atleta di McIntyre, tanto per dire, tutte le cose sono cambiate, Mrakovic è più tecnico che Eze più atleta, qualcosa è cambiato. Però la partita con Barcellona è stata il sigillo proprio, ha detto ok, siamo tornati, attenzione tutti. Infatti l'hanno letteralmente asfaltato l'avversario, che era anche temibile, ok, mercoledì sera, anticipando ogni azione, ogni passaggio, ogni riconoscimento, ogni aiuto, recupero, raddoppio, rotazione hanno fatto, cioè è stata una cosa impressionante. E in attacco anche stanno venendo fuori, Lavrinovic grande contributo contro Lietuvos Rytas, i due lituani, dato MVP a loro, anche Kaukinis, giocavano veramente bene. È una squadra adesso già nella top 16 e dobbiamo dire favorita per il titolo italiano adesso. Grazie coach, buon lavoro. Ciao ragazzi, ciao, un abbraccio a tutti. Ci sentiamo venerdì con coach Peterson. C'è Marco che scrive: bu sacrosanti, ma alla fine dopo la partita i tifosi di Cleveland sono andati via con parecchia nostalgia dell'ex 23, il quale ha dichiarato: ho amato questa gente, questi tifosi, beh, dichiarazione di circostanza, lo doveva dire, questa gente per ogni giorno dei miei 7 anni qui, però quei buio ve li faccio risentire. At 4, 6'8 from St. Vincent St. Mary High School, number 6 LeBron James. Palla spicchi. C'è chi scrive, Nico, messaggio sms 349-238-6666, non vedo l'ora di andare a vedere Milano-Valencia nella nostra piccola bomboniera di Biella. In effetti è così, perché Milano giocherà l'8 di dicembre in casa, una partita cruciale contro l'Efes, e quindi la partita successiva con Valencia verrà giocata per indisponibilità del forum proprio a Biella. Vorrei tornare sull'argomento Eurolega, i Bua LeBron James, li abbiamo sentiti, se volete poi ne parliamo anche. 800-24-00-24, numero verde. Con coach Peterson abbiamo parlato di Roma, che ieri ha giocato questo grande secondo tempo con problemi di organico, con l'infortunio di Giachetti, con problemi di varia natura, un calcio alla crisi e Roma passa alle top 16 di Eurolega. Per me è un piacere salutare Matteo Bonicioli, coach di Roma. Ciao Matteo, grazie. Ciao, ciao, buon pomeriggio, grazie dell'invito. Un piacere risentirti come sempre. Un grande secondo tempo, è un piacere sentirti dopo questo grande secondo tempo, mettiamola così. Sì, abbiamo giocato un buon secondo tempo, la squadra si è un po' liberata di tutti i cattivi pensieri che ovviamente nascono quando la stagione comincia oggettivamente non secondo le aspettative, anche se secondo me ci sono delle spiegazioni abbastanza banali per illustrare questa situazione, però è chiaro che quando insomma ti accorgi che stai giocando in casa con una squadra di livello che viene da due vittorie con Real Madrid e Malaga e hai la possibilità di entrare nelle top 16, che sono forse dopo i playoff NBA voglio dire l'appuntamento cestistico mondiale a livello di club più interessante che ci sia, ti accorgi che tra essere preoccupato e cercare di giocare meglio per vincere la partita, la seconda che ho detto è meglio, insomma. Certo. Quindi, e allora ci siamo dati da fare, ci siamo dimenticati i problemi che avevamo e guidati da Washington e Djedovic, che ci hanno dato grande energia e da Traore che sta giocando meglio, abbiamo giocato un buon secondo tempo. Coach, siete una squadra che si accende e si spegne, tu stai cercando l'interruttore o stai cercando un leader? No, sto cercando l'interruttore, devo dirti, però non posso dimenticare che l'unica cosa che non abbiamo avuto in questo primo i due mesi di lavoro, due mesi, sono state le cavallette, la lepra, sai, queste cose bibliche, perché abbiamo avuto 4 fratture, uno scafoide, un menisco, un setto nasale, una subluxazione del dito, e sono diventato un medico piuttosto che un allenatore. Appena le cose stavano tornando, diciamo, per il meglio, tieni presente che su 14 partite giocate abbiamo avuto il roster disegnato quest'estate una volta soltanto, si è rotto il crociato Giacchetti, che non è soltanto un infortunio, quindi un'ulteriore necessità di trovare un assetto, ma è anche un colpo al morale del gruppo. Jacopo è uno dei giocatori più importanti della nostra squadra, anche dal punto di vista dell'atteggiamento, dell'incoraggiamento, dell'energia, dell'entusiasmo. Allora è chiaro che rientrando da Bamberg, l'allenamento successivo del venerdì, un altro compagno si rompe e Gigli, che è appena rientrato dal problema allo scafoide, esce per il ginocchio, è chiaro che il clima si incupisce, al di là poi dell'aspetto tecnico, cioè della perdita dei giocatori, che è molto importante. E quindi questa vittoria io mi auguro, così come quella di Bamberg, ci dia un po' di serenità e ci metta in questa situazione paradossale per cui, mentre non so, Vitoria e Khimki o Vitoria e Mosca, Cesca, sono prima in campionato ma in difficoltà in Eurolega, noi siamo quasi dentro, non ancora dentro, ma quasi dentro in Eurolega e in difficoltà in campionato. Non sei Benitez, ma hai avuto una fila di infortuni che manco l'Inter. Come d'altra parte Milano, Matteo, ma è fisiologico questo? È il logorio dello sport moderno? È sfiga? Che cos'è? Ma guarda, io ti dico una cosa, lo dico sempre ai miei amici scherzando, perché mi prendono tutti per cretino, ma fare sport a questi livelli fa malissimo. Sì, sì, ma sono d'accordo con te. No, fa malissimo. Nel senso che lo sport, finché lo fai correndo al parco, è una cosa utile. Quando lo fai facendo 8 ore di viaggio tra aerei, pullman, attese negli aeroporti e poi arrivi a Roma e fai 2 ore di allenamento, le percentuali di rischio si alzano, perché cioè, questo livello di sport è pericoloso, le strutture dei giocatori sono sottoposte a delle sollecitazioni enormi, le competizioni aumentano e al contrario dell'NBA, qua dalla prima partita di precampionato all'ultima partita di qualsiasi competizione alla quale tu prendi parte, si gioca solo per vincere. Certo. Che mentre nell'NBA, quando tu finisci la stagione col 50% delle vittorie, hai fatto una stagione vincente, qua col 50% delle vittorie molti allenatori non arrivano alla fine dell'anno. E allora questo aggravio di, diciamo così, di pesantezza psicologica, oltre all'enorme fatica fisica del sopportare, ti dico, una stagione di 70-80 partite vere, però partite dove appunto ogni volta che perdi un disastro e ogni volta che vinci un trionfo, questo aggrava la situazione e fa sì che Milano, che è stata più brava di noi senza ombra di dubbio in campionato, che probabilmente ha avuto l'infortunio a partire da un certo momento in poi del campionato, noi li abbiamo avuti prima, Milano li ha adesso, auguro a Milano di recuperare i propri giocatori, auguro a noi di riuscire a rimetterci in carreggiata in campionato, insomma. Sì, no? Torno alle dichiarazioni che facevi tu prima, fare sport a questo livello fa malissimo. Mi è tornato subito in mente Carlo Ancelotti, che un giorno disse gli sportivi professionisti non sono persone sane. Mi è rimasta impressa quella definizione. Ma certo, perché non ho il corpo soprattutto, ma anche la testa, sono sottoposti a delle sensazioni pazzesche. Senti, l'avvio di stagione difficile di Charles Smith non può non avere condizionato la tua squadra. Beh, è chiaro che, diciamo, Charlie ha pagato secondo me una cosa sostanzialmente, il fatto di aver passato tutta l'estate a lavorare poco in attesa di una squadra e a 35 anni recuperare è più difficile che a 20, no? Una condizione, sì, che ti dia continuità di prestazioni. È altrettanto chiaro che a oggi, diciamo così, il canestro segnato da Charlie a un secondo e nove decimi dalla fine a Bamberg, lo dico esasperando il concetto, ma giustifica la sua presenza a Roma, nel senso che noi non abbiamo preso, cioè noi abbiamo una squadra in cui ci sono 5 giocatori della squadra nazionale italiana e altri 4 stranieri, tutti molto giovani, molti di loro alla prima esperienza importante, tra Djedovic, Dasic, Eichel stesso, che giocava in una piccola squadra in Turchia. Charlie è stato preso come una sorta di cameo, no? Il tocco di classe del grande campione, a suggello di una prestazione che doveva essere fatta dagli altri. Charlie non è più il giocatore che mi portò in A1 con la Snyder, a 25 di media, sì. Quindi di conseguenza è chiaro che lui, tra l'altro, è un giocatore che sempre di più con gli anni ha bisogno di un sistema, perché non è più il giocatore al quale davi la palla e poi faceva lui. Ed è chiaro che in questo momento il nostro è un sistema ancora in rodaggio, insomma, che non esalta sempre le caratteristiche. Matteo, tu personalmente pensi di aver sbagliato qualcosa fin qui? Guarda, me lo chiedo quotidianamente, perché prima di pensare a qualsiasi altra situazione, penso al mio lavoro, al mio atteggiamento, a quello che ho fatto, a quello che ho detto. Devo dirti che abbiamo lavorato molto bene. Bossa è uno che non le manda mai a dire, li voglio bene oltre che per tanti altri motivi, anche per questo il suo commento al nostro lavoro quotidiano è sempre stato più che positivo. Ti dico, in una squadra nuova per 6 decimi, per 6 undicesimi, diciamo così, noi abbiamo fatto il primo allenamento in 10 senza Datome e Gigli 2 giorni prima di giocare la partita con Brindisi. Fino a quel momento 1 contro 1, 2 contro 2, 3 contro 3. Allora tu capisci che da quel momento in poi noi abbiamo giocato, credo, in 44 giorni 14 partite, sono circa una partita nei 3 giorni. Sì. Non abbiamo fatto la preparazione tradizionale, abbiamo dovuto annullare dei tornei in Turchia, un torneo a Isernia, perché non avevamo i giocatori per andare a fare le partite. E anche quando le facevamo, le partite di precampionato, le facevamo in 4 con i ragazzini, in 5 con gli juniores. Allora di fatto quello che il precampionato, l'obiettivo del precampionato è quello di cercare di capire la squadra che hai costruito su carta. Sì. Ed eventualmente anche di correggerne degli errori prima che la stagione cominci. Noi abbiamo dovuto capire che squadra avevamo costruito giocando con l'Olympiacos, con il Real Madrid, con Malaga, con Avellino, con Milano. Non è il massimo della vita per un allenatore. Credimi che non è facile. No, tutti ci stanno mettendo al massimo dell'impegno. Devo dirti che i giocatori, molto spesso, chi ha difficoltà a trovare cose intelligenti da dire, pensa che la squadra giochi contro l'allenatore, sai, ste sciocchezze. La realtà è che, voglio dirti, una squadra che muta continuamente assetto perché rientrano dei giocatori che non c'erano prima. Tieni presente che Datome è rientrato 2 settimane fa e Gigli è rientrato 1 settimana fa per poi uscire di nuovo. Sì. Giacchetti, che ci dava rotazione nel giro dei playmaker, è uscito per i prossimi 3-4 mesi. L'assetto è una cosa importante. Questo non è un mestiere per maghi, questo è un mestiere per gente che programma, che lavora e che costruisce. No, su questo non c'è dubbio. Purtroppo sono venuti meno dei presupposti che di solito in una certa misura accadono. La preparazione è difficoltosa, c'è sempre, ma la non preparazione, perché noi non abbiamo fatto nulla, e abbiamo dovuto mettere insieme un'idea di squadra in 10 giorni, 15, in 2 giorni prima dell'inizio del campionato e poi giocando, e onestamente a questi livelli è molto difficile. Grazie coach, buon lavoro. Grazie a voi, bocca al lupo, è sempre un piacere. Abbraccio Matteo Boriccioli. Adesso ci fermiamo per sentire la borsa, tra poco ci fermeremo per la borsa, subito dopo. Già ve lo annuncio, cominciamo a inquadrare invece ciò che ci aspetta domenica alle 11.45, cioè Monte Paschi Siena, Armani Milano. Sulla carta in questo momento Siena sta molto meglio di Milano, come si diceva prima con Coach Peterson, ha cominciato a viaggiare col pilota automatico, però Milano anche ieri sera ha dimostrato di avere qualcosa sotto la maglietta, o se preferite qualcosa sotto i pantaloncini. È una squadra di grande cuore, perdonatemi l'ineleganza naturalmente, però una squadra di grande cuore, e sta trovando anche nelle difficoltà delle cose meravigliose, ad esempio Damelli, che ieri ha giocato la sua migliore partita nell'ancor brevissima carriera in maglia biancorossa dell'Olimpia. Subito dopo, appunto, la borsa, cominceremo a inquadrare questo argomento giocando uno contro uno con Michele Ori. A dopo. Palla spicchi. Dunque, ecco che torniamo e parliamo di Siena-Milano, che non sarà Barcellona-Real Madrid, poi guardiamo il risultato. Poi a domenica pomeriggio vedremo il risultato e vedremo se rispecchierà quello di Barcellona-Real Madrid. Non sarà Barcellona-Real Madrid, ma la prima grande partita della stagione italiana. Allora facciamo così, giochiamo la prima con Andrea Michelori. Ciao Andrea. Ciao, ciao a tutti. Senti, adesso per presentare Siena-Milano io ti sfido in uno contro uno. Sei pronto? Prontissimo, sempre. Proviamoci. Allora, Andrea, Michi Michelori, Montepaschi Armani, che cosa ha in più Siena per vincere e che cosa ti fa una paura maledetta di Milano? Ma assolutamente direi che noi abbiamo in più il fattore campo. Un periodo che stiamo giocando bene, che stiamo facendo dei buoni risultati, quindi è un periodo positivo. Dopo un inizio un po' tentennato. Senti, fa paura di Milano, sì. sicuramente la loro pressione, che difensiva che quest'anno stanno facendo vedere di avere assolutamente con Jarre, Hawkins, Mordente, ecco, sicuramente molta più cattiveria difensiva, e riescono a trovare anche dei buoni contropiedi un po' aperti. Prima ho parlato di Barcellona Real Madrid 5-0, non so quanto finirà Siena, ovviamente di calcio, non so quanto finirà Siena-Milano. In fondo però è una partita facile, Michi. A Milano mancano un sacco di giocatori, è un peccato questo o un alibi già pronto per loro? Direi che è un peccato, ma secondo me ci sono tante altre partite tra Siena e Milano, quindi non sarà assolutamente una partita decisiva. Questa partita sicuramente sarà una bella partita per confrontare due squadre che agli occhi di tutti sembrerebbero tra le protagoniste del campionato. Cosa daresti per arrivare alle Final Four di Eurolega a Barcellona? Tantissimo. Direi che Final Four di Eurolega sono un sogno. A oggi sono un sogno. Poi vediamo un passo alla volta, ma a oggi sono un sogno. Io mi ricordo quando giocavi nelle giovanili con Mordente, nel giovanile di Milano. È passato un po' di tempo, stai diventando un vecchio giocatore, me lo permetti, stai diventando un vecchio giocatore. Di allenatori ne hai avuti tanti, adesso Simone Pianigiani. Il metodo Pianigiani com'è? Ma il metodo Pianigiani è un metodo che ti tiene sempre molto con la testa sulla pallacanestro, molto, anche perché gli impegni sono tanti. Però in tutto l'allenamento la concentrazione direi che è la cosa più importante che ci vuole per un giocatore, perché ogni minima distrazione si nota, e ovviamente Simone si arrabbia perché vuole la concentrazione massima da me come da tutti gli altri giocatori. Gli dici che vuoi tornare, che vuoi giocare in nazionale sempre? No, io ho già detto che 2 anni fa ho già rinunciato alla nazionale, questa è stata la mia scelta, sono fatto 2 anni fa. Perché diciamo per sottolineare di più, ecco, come dicevi te, non sono più un giocatore troppo giovane, per tutelare un pochino di più il mio fisico, che è una piccola sosta dopo un campionato molto lungo e comunque che chiede molto sforzo, sento che un pochino fisicamente ho bisogno di un mesetto, ecco, di riposo, ecco. Senti, dicevo prima, sei nato a Milano, 6 anni in maglia Olimpia, eppure da quando sei andato via hai giocato contro Milano 3 volte in semifinale. Sì, lo so, di cui una mi sono anche fatto male al ginocchio, l'unico infortunio vero l'ho fatto proprio al Forum, che era palestra dove ho giocato tantissime partite, e tra l'altro dove vedevo, quando ero ragazzino, nelle giovanili di Milano, vedevo la Milano dello Scudetto, Stefane, quindi diciamo che ho tanti bei ricordi legati a quel campo lì, e anche purtroppo uno negativo, che è l'infortunio del ginocchio. Michi, quanto bene vuoi a Marco Mordente? Tanto, sinceramente tanto. Poi ovviamente adesso gli impegni col basket, io a Siena, lui a Milano, ecco, sono un po' allontanato perché siamo entrambi molto impegnati. Però quando ci sentiamo facciamo sempre molto volentieri ieri, è come se niente fosse passato, cambiato e passato. Però ecco, sicuramente mi farebbe piacere rivederlo di più. Senti, c'è qualcuno invece di Milano che ti sta un po' antipatico? Sul no, campo? No, assolutamente. Nessun no, problema con nessuno? No, assolutamente no. Andrea, ti è passato l'incubo del tiro libero? Sì, no, è passato, sì. Nessun problema, anzi, mi ricordo l'anno scorso quando giocava a Caserta contro Milano, grazie a tutti i liberi siamo riusciti a guardare il pareggio e poi supplementare. Sì. Quindi ecco, ho fatto già altri due tiri molto importanti e ho fatto 2 su 2, quindi era già passata già l'anno scorso, diciamo così. Già passato da tempo. Perché sempre il numero 15 nella tua carriera? Sulla maglia, naturalmente. Ma l'ho avuto sempre dalle giovanili e mi sono sempre trovato bene. C'è stato un anno, una stagione che non l'ho avuto perché ne aveva già un altro giocatore che era lì da più anni di me, però numero 15 perché un numero al quale mi sono affezionato e che penso mi porti fortuna. Senti, ma a Natale quest'anno a casa Michelori panettone o panforte? No, panettone, io sono ancora per il panettone. Hai visto Caserta che se è andato via tu, un trauma senza fine? Si è sentita l'assenza di Michelori in un avvio di campionato pazzesco? Non sono completamente di questa idea, ecco, ho avuto anche un po' di problemi sia con il pivot che avevano preso e che poi hanno scartato ancora prima di iniziare il campionato e poi sono l'infortunio di Bella che ha avuto per un mese in precampionato, quindi hanno avuto assolutamente degli ostacoli e delle difficoltà. Non penso che sia legato ecco al mio addio, ecco, al fatto che io sia andato via. Sicuramente ecco, magari qualcosina sì, però sono convinto che ecco, con Sacripanti, che è assolutamente un ottimo allenatore, il tempo è dalla ragione che hanno sicuramente interessato la mia niente. Adesso siamo alla fine dell'intervista, ci devi cantare un pezzettino della verbena. No, cioè, la sento ma non la conosco. Però. Non hai ancora imparato le parole? No, sento ma non le ho imparate. Allora. Anche perché in quel momento la canto, nel momento in cui si sta per entrare in campo, sì. E quindi sento, ma non ci do molta importanza, ecco. Io scommetto che tra 30 secondi su Facebook ti arriva il testo da imparare a memoria. Può darsi, forse me lo merito. Grazie Andrea, grazie davvero. Grazie a voi. Un abbraccio in bocca al lupo. Grazie Andrea, grazie Michi, Michelori. E dopo questo uno contro uno Michelori, ripartiamo da un ascoltatore, Fabio da Milano, 800 24 00 24, numero verde. Mentre parlavo con Michelori vedevo che arrivavano messaggi carichi di nostalgia da Caserta per questo giocatore che è andato a Siena a fare giocatore di completamento, di rottura, l'agente speciale difensivo. Dunque, Fabio da Milano, buonasera. Sì, buonasera. Niente, io volevo parlare un attimo della partita appunto prossima domenica di tra Armani e Montepaschi. Sì. Che appunto, diciate voi anche un po' prima, è un peccato che arrivi in un momento in cui Milano, che sta giocando peraltro molto bene nonostante le assenze, appunto non la possa giocare a organico completo, perché mai come quest'anno, forse Milano dopo anni che ogni volta rivoltava la squadra come il calzino aveva fatto delle mosse sul mercato molto azzeccate, quest'anno se la può giocare, se recupera i giocatori tranquillamente secondo me contro Siena e anche in Eurolega. Se avesse avuto Petravic o anche Pecerov, certo. a parte Panathinaikos, poteva tranquillamente vincere anche le altre. Sì, no, ma è un peccato, Fabio, che Milano appunto arrivi a questo momento della stagione, perché c'è la partita con Siena che, per dire alla Mourinho, siamo solo all'inizio del campionato, quindi alla fine vale questi 2 punti che ballano e poco altro. Però è un peccato che Milano arrivi a questo primo momento intrigante della stagione messa così male sul piano degli infortuni. Tra l'altro sono tutti infortuni, non solo Roma, di cui parlavamo prima con Cosponi Scioli. Tutti infortuni seri, tutti infortuni lunghi. D'altra parte Petravicius a Milano l'anno scorso mi sembra abbia giocato 16 partite o giù di lì, una quindicina di partite. Quest'anno ha giocato qualche partita... C'è stato praticamente sempre, però non si è allenato mai, non è in condizione nemmeno di giocare stabilmente ad alto livello. Insomma, è un giocatore con seri problemi e con un contratto molto pesante, e io credo sia un nodo da sciogliere alla svelta per Milano questo. Certo. E un'ultima cosa, sono ancora in linea? Sì. Forse l'avete già detto, ma lo sono perso, ma gli infortuni di Becherov e Maciulli sono a lungo termine entrambi, o si sa già più o meno i tempi di recupero, insomma? Niente è dato sapere, tutto piuttosto misterioso. Beh, Becherov avevamo un serio problema muscolare, tra l'altro un infortunio dalla dinamica estremamente curiosa, però non ci sono certezze sui tempi di recupero. Certamente se ne parla l'anno prossimo, nel senso nel 2011, quindi dopo Capodanno, tra l'altro il campionato nemmeno si ferma, però sono tutti infortuni che richiedono cure e terapie. Adesso il problema vero è quello di un lungo, perché sotto canestro, insomma, l'assenza di Petravičius con delle partite cruciali in Eurolega da giocare con l'Efes e poi con il Valencia, diventa qualcosa da risolvere alla svelta, perché il solo Van der Spiegel secondo me non può bastare, soprattutto in Eurolega o in partite come, che di fatto sarà una partita di Eurolega, quella di domenica, contro squadre di quel livello come Siena. Grazie Fabio. 800240024, se volete siamo qui, traffico, poi torniamo. Palla spicchi. Flavio Tranquillo, buongiorno. Buongiorno a lei. Ciao Flavio, già che stavamo parlando di Siena-Milano, l'abbiamo fatto con Michelore, l'abbiamo fatto con un ascoltatore, lo facciamo anche con te. Siena-Milano, un peccato, dicevamo, che Milano ci arrivi così, con le stampelle in mano. Beh, ovvio che preferiremmo tutti in primis Milano sapere effettivamente quali sono le sue possibilità, però è anche vero che vale sempre il famoso detto dei San Antonio Spurs e di quelli che vincono, no excuses, niente scuse, e mai come in questo caso Milano, al di là di vincere o perdere, deve far vedere un certo tipo di cose che dipendono solo parzialmente da chi c'è e chi non c'è. Sì, e che ieri sera si sono viste, a Lubiana tutto sommato. Mi puoi chiamare tra 5 minuti? Qualche problema di linea e di contatti con Flavio. Flavio, ci sei? Sì, ci sono. Eccoci. No, dicevamo, cose che dipendono solo parzialmente da chi c'è e chi non c'è, che ieri sera a Lubiana si sono viste, tutto sommato. Sì, direi di sì. Direi che ieri è stata una partita che ha fatto vedere fin dove può arrivare Milano, però anche ha fatto vedere che c'è un pezzo di strada da fare. Nel senso che, con tutti i meriti dell'Olimpia, quando rimonti così, quando la partita ha preso una certa piega, quando stai cavalcando una certa onda che onestamente aveva creato soprattutto Nicolò Melli, e poi devi essere in grado di non scendere da quell'onda, e invece Milano è scesa e nel finale secondo me ha fatto vedere che ancora in quelle situazioni si guardano tutti e dicono tocca a te, tocca a me, tocca a lui, Melli è troppo buono, questo magari non è esattamente il suo mestiere, allora faccio io, ma non voglio fare troppo. Le domande sono sempre quelle. Torniamo invece insieme all'argomento della notte. At 4-6-8 from St. Vincent St. Mary High School, number 6 LeBron James. Sono invece quelli di Ilgauskas, quelli riservati a Ilgauskas, altro ex, per rispondere anche a Omar. Ilgauskas è stato accolto con gli applausi, invece number 6 LeBron James, con una voce che più spettrale non si poteva. È andata così, Flavio, contestazione all'americana, nessuna partita in realtà, 118-90. Mi è venuto in mente, assistendo a questa contestazione all'americana che ci sta, quella all'italiana ieri a Lecce con Diamutene, che giocatore del Lecce è stato aggredito in campo da degli individui leccesi, perché gli rimproveravano di aver giocato nel Bari. Vabbè, torniamo a LeBron. Non va tanto bene, ma torniamo a LeBron, guarda, devo dirti che io, senza arrivare a quegli eccessi, non sono neanche così tanto tifoso di questa situazione, nel senso che faccio un po' fatica a compenetrarmi in 20.562 persone che, non so, 5 mesi fa avrebbero applaudito e incoraggiato LeBron qualsiasi cosa avesse fatto, e 5 mesi dopo lo fischiano in questa maniera. Lo speaker è costretto dalle esigenze di copione a cambiare leggerissimamente l'intonazione. A me sembra un modo un po' così da fare nel circenses di presentare una cosa, di vellicare un po' degli istinti che non mi piacciono tantissimo. Quelli, figurati di Amutene. Flavio, invece, restando in argomento NBA, Lakers 4 sconfitte in fila è uno dei temi del giorno. Mi verrebbe da dire che invece è quasi una situazione augurabile per chi vuole vincere il titolo. Ti permetterà a Phil Jackson di mettere a posto quello che deve essere messo a posto, di non addormentarti in questo momento della stagione? Diciamo che permette un confronto chiarificatore. Nel libro che è stato scritto tempo fa da Sam Smith, ma che è sostanzialmente ispirato da Phil Jackson e che parla dei Bulls della prima era Jordan, c'è questa frase che credo sia di Orson Welles, non ne sono sicuro, ma sono abbastanza sicuro, citata da Phil Jackson, che dice: in Svizzera con l'ordine tutto perfetto, tutto regolare, hanno tirato fuori gli orologi e le cioccolate. In Italia, con tutto il loro casino, anche se detto in un'altra maniera, hanno tirato fuori Michelangelo, Leonardo da Vinci, il 50% del patrimonio artistico mondiale. E direi che Jackson questo principio continua a seguirlo passo per passo. Quindi è chiaro che le quattro sconfitte esprimono dei problemi anche tecnici, anche strutturali, ma saprà bene come sfruttarle. Invece c'è una domanda che arriva da un ascoltatore via Facebook per te. Fa notare come il basket certe volte segue delle dinamiche misteriose. Alan Anderson, che l'anno scorso è stato uno dei migliori giocatori dell'Eurolega, ha portato il Maccabi fin dove lo ha portato, adesso gioca in D-League. L'ascoltatore chiede: ma ve lo ricordate? Ma non interessa proprio a nessuno da queste parti. Beh, interessava da queste parti il fatto che lui ritiene ancora di più dopo la passata stagione di essere un giocatore da NBA, di avere una chance NBA. Poi ci sono anche considerazioni di mercato di un certo tipo, per cui probabilmente se adesso vuoi andare a levare Alan Anderson dalla D-League devi spendere delle cifre che sono, come dire, molto molto significative. Il combinato disposto di queste due cose lo lascia in D-League. Io credo che lui avrebbe fatto bene già 3 anni fa a decidere che tra giocare nell'NBA marginalmente e giocare da super protagonista in Europa, come potrebbe e dovrebbe fare, è meglio la stessa cosa. Però dove c'è gusto non c'è perdenza, dicono dalle mie parti. Sentiamo domenica, Flavio, domenica sera. Un abbraccio. Grazie, Flavio Tranquillo, un abbraccio. Ci sentiamo domenica sera. Naturalmente, come saprete, o se non sapete ve lo ricordo, dalle 20.30 alle 21 ogni domenica vi raccontiamo la giornata di campionato anche con Flavio Tranquillo. Chiudiamo invece con un altro ascoltatore, Mario da Milano, buonasera. Ciao, buonasera. Ciao. E saluti a tutti, anche a Flavio che se n'è andato. No, io intervenivo su Milano per dire la mia opinione. Prego. Ed è che quest'anno, secondo me, differente dagli anni scorsi, la squadra ha una sua identità ben chiara. Sì, sono d'accordo. Cioè, se Milano difende alla morte, ruba i palloni e corre contropiede e vince le partite. Le vince, può vincere anche in Eurolega. Il problema è che chi è un passo indietro quest'anno, secondo me, è la società. Perché per fare questo tipo di gioco non puoi permetterti rotazioni a 7 giocatori, perché sennò alla fine le paghi, perché hai tenuto Finley, che secondo me per questo tipo di gioco non è buono tanto quanto Jabari Hawkins, perché anche come lunghi, al di là degli aspetti medici che per Milano è sempre un mistero insolubile, non credo che abbiamo il lungo giusto per fare questo tipo di gioco. Questa è la mia idea. Ma Mario, e la squadra, però tu dici 6-7 rotazioni. La società purtroppo deve correre se vuole rimediare a queste cose. Sì, ma secondo me anche la società, insomma, con l'ingaggio molto tempestivo di Van der Spiegel, ha dimostrato di essere più sveglia rispetto all'anno passato, dove si è trascinata troppo a lungo la faccenda di Hacker. È chiaro che in questo momento Milano è corta come rotazioni, però ha fuori 3 giocatori importanti. Io invece credo che un giocatore come Pechero, che abbiamo visto ancora pochissimo, sia uno adatto a questo tipo di gioco. È chiaramente un lungo atipico, non è un centro, è un tiratore, l'abbiamo visto pochissimo, e in quel pochissimo secondo me già qualcosa di buono e di importante per Milano ha fatto. Ripeto, un peccato che si arrivi a domenica 11:45, è una partita che, insomma, tutti aspettavamo, non è una partita chiarificatrice, però è una partita molto più interessante rispetto al recente passato. Un peccato che ci si arrivi con Milano che ha le stampelle in mano. Vi racconteremo comunque domenica tutto su questa partita e sulla giornata di campionato. Adesso ci salutiamo, grazie a Franco Piantanida per il lavoro in redazione, a Roberto Scaltritti in regia. Lo Sport torna domani pomeriggio dalle 5 alle 6 a Tempo di Sport. Vi aspetto.